Storiacce di Raffaella Calandra. Le porte che vengono sfondate in genere sono già protette dall'ala. C'è una porta in più di ferro, vengono sbarrate. Se uno si deve assentare per un po' di tempo, magari in ospedale. 30 anni fa non succedeva. Finché fanno elemosine a me non mi interessa. Il fatto che siano spesso delle donne. Eh beh sì, perché hanno i bambini. Fianco a me hanno cercato di occupare, almeno una vicina che abita lì a fianco mi ha detto che hanno buttato intorno, sarà stato in serata perché sono arrivata alle 9 e la porta di acciaio era tutta per terra, quindi cioè l'hanno proprio portata via. L'anno scorso c'era una, non lo so di che paese, era una straniera come me comunque, che ha occupato quella casa lì per circa 6 mesi più o meno, che l'hanno buttata fuori. È meglio stare lontano. Sulle scale ho sentito dei stranieri che altro piano, non so se è stato al terzo o quarto, che hanno cercato di occupare anche lì e sono andati coi coltelli, tutto, cioè perché ho visto dal buco. Hanno già provato ad aprirla, questa qua, la nostra. Questo è stato un rumore, un casino infernale, abbiamo chiamato la polizia, sono venuti, li hanno sbattuti fuori, però l'ala non affitta. Anche perché se io la lascio in mano a usurai che hanno occupato, loro se la mettono a posto io non intervengo, mi pagano in nero. Ma se io devo affittarla a lei, devo rimetterla a posto, farla nuova, piastrelle, bagno, tutto il resto, mi viene un costo esorbitante. In alcuni palazzi qui della zona si sono organizzati anche con un guardiano interno, sì. Diciamo. C'è di fronte a noi, dove oltretutto è quello che gestisce il giro, si può dire. Cioè, tu hai bisogno di una casa, vai da lui, e poi oltretutto questo signore non è ben visto perché porta gente non tanto raccomandabile. Praticamente gestisce anche il giro qui di fumo. Sono passata abusiva anch'io, ma non mi sento abusiva. Che l'ho dovuta perdere, sai perché? Perché ho occupato la portineria. Ho vissuto in portineria, mio padre è morto dentro la portineria, senza dignità, senza alloggio, ma io non ho mai sfondato, ho pagato per entrare. A chi ha pagato? A quella che c'era prima, gli ho dato un affitto, ho pagato dei soldi. Ma questa è una casa popolare, non era una casa privata? Lo so tesoro, ma se non fai così non ottieni niente. Quanto gli ha dato? Una bella cifra gli ho dato. I segni dell'ultima battaglia sono i vetri rotti all'ingresso della scala, lo squarcio nella lamiera dell'appartamento vuoto e lo sguardo spaventato della signora Anna, che torna a casa con le buste della spesa e un'ansia aggravata davanti ad ogni faccia nuova. Periferia sud di Milano, strade di vecchi palazzoni e consolidata emigrazione. Qui ogni giorno si combatte la battaglia per l'alloggio. Una battaglia che è sempre più tra vecchi e nuovi abusivi, tra chi la casa l'ha occupata anni fa e si sente ormai al riparo dal rischio sgombero e gli ultimi, soprattutto stranieri, soprattutto rom negli ultimi tempi, ma molto anche nordafricani, che cercano di occupare le case rimaste vuote. Una battaglia tra ultimi, resa ancor più grave dalla crisi e dalla carenza di abitazioni. Il problema è esploso a Milano, ma è molto forte anche a Roma e nelle altre grandi città d'Italia. Ed è in queste periferie che è andata a Storiacce. Bellino 58, poi al 60, via Gentile Bellini 11, poi diritti fino a Piazza Tirana. Sulle pareti con l'intonaco sbrecciato, manifesti pubblici informano che la casa è un diritto, ma qui per tutti è soprattutto una guerra e poi una resistenza. Una guerra per ottenerla, una resistenza per conservarla in condizioni dignitose e poi per difenderla da chi vorrebbe insidiarla. Parabole, più che piante, fioriscono sui balconi di questi palazzoni, dove ogni volta che un condomino muore, più che il dispiacere prevale l'allerta. Perché è allora soprattutto che aumentano i tentativi di occupazione, allora e quando gli appartamenti restano vuoti per qualche giorno di seguito. Da queste parti sono in pochi in realtà ad andare in vacanza e se si chiude la porta di casa più spesso avviene per ricoveri in ospedale e non di rado. Ad anziani è capitato di uscire e non avere più un tetto. Dal 30 giugno al 30 settembre ci sono state 252 nuove occupazioni abusive e 516 tentate occupazioni, moltissime in flagranza, moltissime con donne, spesso incinte o con bambini piccoli, che hanno alle spalle però una più complessa organizzazione che conosce anche i punti deboli della nostra legge. Gli ispettori dell'ALER, l'agenzia che a Milano si occupa dell'edilizia pubblica, ispettori come Francesca, ormai li hanno imparati anche i loro meccanismi. Solitamente la porta d'ingresso non c'è mai, perché viene comunque o smurata o viene divelta del tutto. All'interno solitamente ci sono sempre donne o in stato di gravidanza o con minori. Ecco, per lo più a lei che cosa è capitato? Nel senso di trovare donne con bambini di che nazionalità? Abbiamo un problema di Rom, quindi le persone che occupano, e nella maggior parte dei casi, non hanno mai neanche provato una volta a fare una domanda per avere l'assegnazione di un alloggio popolare. Ecco, il problema è che spesso però in queste case ci sono anche i nuovi che cercano di occupare, ma spesso ci sono anche abusivi storici in questi stessi palazzi. Sì, sì, certo, abbiamo anche occupazioni ormai consolidate da qualche anno, però ovviamente lì con gli atti legali in mano si eseguono sgomberi programmati. Ci sono delle persone nei quartieri, adesso non le so dire se italiani, stranieri, comunque che tendono a far occupare gli alloggi. Anche, cioè, che fanno un po' da informatori, diciamo. Fanno da informatori e anche aprono anche loro direttamente le porte, facendosi comunque pagare delle diverse somme. Cioè, sono persone che abitano sempre all'interno di quei palazzi oppure no? Sicuramente dall'interno parte sempre qualcosa. Ultimamente però devo dire che abbiamo anche moltissimi esponenti dei centri sociali che fanno questo, vanno in giro a controllare gli alloggi vuoti e cercano, comunque li aprono e li danno a persone straniere, italiane, e permettono l'occupazione. Chi dà l'informazione poi si fa pagare, avete un'idea di quanto? Dai 50 euro arriviamo anche ai 1000 euro, questo è quello che ci dichiarano comunque gli occupanti abusivi. Ci dicono che non hanno un posto dove stare, solitamente stanno al parco a dormire con minori, e di non avere altri posti dove andare, di non voler andare in comunità, quello è certo, e quindi di voler rimanere per forza ad ogni costo nell'alloggio occupato. Poi arrivano, diciamo, anche, non so, gli uomini, chi ha gestito anche proprio, certo, queste occupazioni. Ovviamente dopo il passaggio nostro, quindi degli ispettori ALER e delle forze dell'ordine, già abbiamo all'interno il marito, il cugino, il fratello, comunque il nucleo diventa completo a tutti gli effetti. Mentre al momento dell'occupazione ovviamente le donne riferiscono sempre di essere donne abbandonate dal marito, lasciate sole con i bambini. Il nome qui non lo vuole dare quasi nessuno, non lo dà per intero neppure l'ispettore, che poi ogni giorno è in trincea in questi caseggiati dai 100 occhi. Non lo danno per niente la maggior parte degli inquilini. Tra scale buie e pianerottoli da cui arrivano odori di cibo di ogni latitudine, la maggior parte delle persone in realtà sfila via, senza voler parlare. Accendere i riflettori sulle ultime occupazioni e il timore di tanti potrebbe infatti portare alla luce anche vecchie questioni. Aprono la porta e parlano serenamente invece solo gli inquilini regolari, che qui sono la minoranza, come Giuseppe Nazzareni. Con la moglie Patrizia e due figli combattono contro i nemici di fuori, quelli che hanno provato ad occupare la casa dal balcone, e quelli di dentro, la muffa ad esempio, che devasta la parete della loro camera da letto, e gli infissi gonfi che lasciano entrare il freddo milanese. Questa è la famosa finestra che è aperta. Abbiamo chiamato l'ALER, non gliene frega niente, perché l'ufficio tecnico ci dice sì, arriviamo, ma dal 94 l'ufficio tecnico non è mai venuto a guardare che stato è. Accanto alla casa di Giuseppe una porta murata segnala un appartamento vuoto da tanto, come quello al piano di sopra, perché il nodo di questa battaglia per la casa sono anche i 2500 appartamenti pubblici sfitti in una città con una grandissima fame di abitazioni. E questo perché i bilanci di ALER sono in rosso e le case andrebbero ristrutturate prima di essere messe in affitto. Lo ammette il presidente dell'ALER, Gian Valerio Lombardi, ex prefetto di Milano. Siamo preoccupati perché sostanzialmente si verificano due occupazioni al giorno. La task force l'ho creata io 5-6 mesi fa, dopo che ho visto che il problema assumeva dimensioni molto rilevanti. Della vicenda se n'era appunto già occupato da prefetto nel momento in cui le occupazioni c'erano, erano molte di meno, ma soprattutto erano molti di più i tentativi sventati di occupazioni, anche sì. 600 nel 2010. La ricetta era molto semplice, noi avevamo considerato era necessario intervenire su tutte le occupazioni. Invece poi nel tempo, per vari motivi, non c'è stato più questo intervento caso su caso, e quindi adesso siamo arrivati a questi numeri, che se un occupante l'occupazione la fa alle 6 del pomeriggio, già è sicuro che se c'è una mamma col bambino l'intervento non si può fare. E questa è la ragione per cui proprio le donne, casomai donne incinte oppure donne con bimbi piccoli al seguito, sono quelle che vengono un po' mandate in avanscoperta, diciamo, ad occupare. E abbiamo anche scoperto che sono le stesse persone sullo scenario degli interventi in più parti, insomma. Quindi in una realtà come Milano, dove il problema della casa è un problema molto, molto sentito, molto forte, c'è anche la questione delle case popolari che sono vuote. Io ammetto che il problema c'è, perché quando vengono lasciati gli appartamenti vuoti per finita locazione, per poterlo dare a un inquilino successivo, bisogna che l'azienda sostenga il costo della ristrutturazione per appartamento, che è pari circa a 10-15 mila euro per appartamento. Quindi io sto studiando anche la possibilità di avere procedure che consentano di dare l'appartamento nello stato in cui si trovano, coinvolgendo l'inquilino nella ristrutturazione, che poi viene scontata sul canone. Anche per questo ora il Comune si riprende la gestione e la responsabilità dell'edilizia pubblica. La battaglia per la casa a Milano è diventata pure battaglia politica, ma resta soprattutto lotta tra ultimi per la sopravvivenza. Storiacce. Qui, a differenza degli altri cortili, c'è quello che, diciamo, gira e manda via gli stranieri, più che altro. Italiani, c'è un custode? No, non un custode, una persona normale che manda via le persone. Che si è preso il compito di fare la ronda? Sì, messo d'accordo dagli altri, manda via gli stranieri. C'è una specie di guardia tra di noi che ci facciamo. Come vi organizzate? E come ci organizziamo? Qualsiasi rumore, o io o lei esce fuori, o il signore che abita su esce fuori. Da quella finestra qui hanno provato ad entrare. Sì, sì. Voi che cosa avevate trovato? Cioè, avete trovato la finestra forzata? Aperta. Sì, aperta. Aperta con tutta la roba a soqquadro, perché tanto siamo delle case popolari, cioè vengono a rubare cose che non abbiamo nulla da rubare. Addirittura una persona è stata costretta a dargli la chiave proprio di persona, cioè lui, morta la mamma, doveva ridare le chiavi all'Aler. Cosa hanno fatto? Gliel'hanno chieste e loro abitano adesso, praticamente hanno occupato una casa. Ma qui, le ripeto, qui all'interno del nostro cortile la popolazione è abusiva. La sentinella ormai è quasi in ogni palazzo, come le ronde, per controllare la situazione, soprattutto di sera e soprattutto quando gli appartamenti si svuotano. Obiettivo: mettere in fuga chi arriva col piede di porco in mano e l'intenzione di occupare una casa. Il meccanismo ormai si ripete, come si ripetono le facce, volti di donne soprattutto, usate da questo racket delle case abusive per entrare per prime nelle case. A volte sono nordafricani, a volte sono rom quelli che li gestiscono, altre ancora sono italiani. Da un quartiere all'altro di queste periferie meridionali di Milano cambia anche la regia delle occupazioni, mano per lo più a bande locali e a gente che si fa pagare, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, per passare le informazioni sulle case vuote. E c'è chi, come la cosiddetta Zarina, ormai è una veterana delle occupazioni, avendone all'attivo ben 12. Un caso emblematico, commenta Gianni Santucci, che con Andrea Galli del Corriere della Sera ha per giorni scavato nelle dinamiche delle occupazioni. Parliamo di una ragazza, in questo caso italiana, che è stata denunciata per occupazione abusiva per 12 volte. Si dimostra che spesso il racket appunto è proprio organizzato. Chi li gestisce è straniero a sua volta o anche italiano? Piccoli gruppi di quartiere, quindi criminalità di zona, gruppi criminali di origine marocchini o egiziana. L'elemento emerso negli ultimi anni, un po' nuovo, è la grande presenza di gruppi rom. Una situazione questa che è di sicuro degenerata a Milano, e quando si consumano almeno due occupazioni al giorno il comune decide di riprendersi la responsabilità degli alloggi pubblici e toglierli all'ALER, di cui contesta soprattutto la gestione finanziaria. A Palazzo Marino ora stanno preparando un piano contro le occupazioni, anticipato a Storiacce dall'assessore Daniela Benelli. La risoluzione radicale del problema sarebbe eliminare gli alloggi sfitti. Sono in condizioni fatiscenti che vanno ristrutturati. Questo chiama in causa anche i bilanci dell'ALER. Noi abbiamo messo nei nostri bilanci tutti gli anni un 20 milioni per la ristrutturazione degli sfitti. ALER invece da un po' di tempo qua ha bloccato tutti i lavori, compreso quello della ristrutturazione sfitti, e li ha ripresi solo recentemente dopo, in seguito a un finanziamento regionale di 6 milioni che gli è stato dato. Abbiamo ereditato, quando ci siamo insediati, circa 3.000 alloggi che erano sfitti, siamo già scesi a 2.000. In che modo date voce a questa insoddisfazione? Come la nostra insoddisfazione, non solo per questo, anche per il modo in cui sono state gestite le nostre case, è totale. Noi dalla fine di questo mese, cioè dal 1° di dicembre, abbiamo deciso di riprenderci in carico le nostre 28.000 case e di affidarle a una nostra società del Comune di Milano, partecipata al 100%, che è MM. E rispetto invece all'aumento delle occupazioni da parte di persone di nuclei familiari di etnia rom, in qualche modo è collegata anche al problema della gestione dei campi? Come tutta l'opinione pubblica milanese ci chiede, bisogna sgomberare i campi rom abusivi, cosa che noi abbiamo fatto, offrendo però attenzione alle famiglie sgomberate delle alternative. MMM, abbiamo detto, la prima cosa che dovete fare è studiare immediatamente un piano sicurezza, prima di tutto portinerie, capire se c'è la possibilità di investire su un presidio notturno, capire se possiamo studiare un sistema di videosorveglianza. Anche se è di Milano soprattutto che si parla, le occupazioni abusive sono un problema anche a Roma, dove è capitato pure che quelle case siano poi state subaffittate, quando non direttamente rivendute. Il problema è delle periferie, come il Quarticciolo ad esempio, ma pure, sia pure in modo assai diverso, delle zone più centrali, dove nell'edilizia popolare abita chi ha patrimoni a molti zeri. Succede anche questo, e queste persone vanno cacciate, promette l'assessore Daniele Ozimo. Dietro al fenomeno delle occupazioni di alloggi popolari ci siano delle vere e proprie organizzazioni malavitose. Quali sono i quartieri che vi creano più problemi? Un quadro dettagliato di questa natura legata ai quartieri non ne abbiamo. Sicuramente le zone periferiche sono quelle un pochino più falcidiate. Con lei prima ha parlato di una gestione malavitosa. Sicuramente ci sono territori dai quali rientravano spontaneamente nelle disponibilità dell'amministrazione alloggi popolari che nel corso degli anni via via si sono andati azzerando. Dall'altra, un'azione più di sistema, di controllo, i redditi alti altissimi partendo dal centro storico della città. Perché questo riguarda le persone che abitano dentro case popolari pur avendo dei redditi molto alti. Che possiedono anche patrimoni. Serva un'azione energica finalizzata ai controlli a partire, ripeto, dal centro storico. Lasciare incustodita una casa in realtà era un problema già anche nel tempo degli dei e degli eroi. Mitiche storiacce. Giorgio Ieranò, professore all'Università di Trento e autore di libri sulla mitologia classica. La prima casa occupata della storia era registrata al catasto dell'isola di Itaca. Era proprietà di un signore che è riuscito a non abitarci per 20 anni di fila, per colpa di una guerra e di vari imprevisti nel viaggio di ritorno. Insomma, l'avrete capito, stiamo parlando della casa di Ulisse, un episodio mitologico di occupazione abusiva, occupazione organizzata e di gruppo. Nel palazzo del re di Itaca si insediarono un cospicuo numero di principi, tutti aristocratici e benestanti, non avevano neppure l'alibi di una condizione economica disagiata. Ma più si ha e più si vuole. E dunque ecco i proci che per 10 anni dormono, mangiano e bevono a sbafo in casa di Ulisse, insediandogli la moglie Penelope. Inutili, le intimazioni di sfratto del giovane Telemaco. Dovette rientrare il proprietario in persona ed eseguire lo sfratto a colpi di lancia e di frecce. «Cani!» grida Ulisse ai proci che bivaccano nell'atrio della sua reggia. «Non pensavate che sarei ritornato, perciò mi mangiate la casa e mi corteggiate la sposa senza temere la punizione degli dèi o la vendetta degli uomini». Così racconta Omero, aggiungendo che i proci offrirono un risarcimento per aver salva la vita, 20 vacche e molto bronzo e oro. Ma fu inutile, nessuno sopravvisse all'ira di Ulisse. Volendo, l'Odissea la si può leggere anche così, l'avventura di un proprietario che vuol rientrare in possesso del suo immobile. Ma voi, se dovete sfrattare qualcuno, non seguite l'esempio di Ulisse. Queste sono mitiche storiacce di 3000 anni fa. Grazie dunque a Giorgio Jeranò e dopo le mitiche storiacce chiudiamo con la segnalazione della settimana. Lo spazio, come sapete, riservato a voi, a quello che voi volete farci sapere. Ma restiamo a Milano. È Daniele Tozza a scriverci per parlarci di un'altra notte di forti piogge e un'altra notte da passare in bianco. Ogni 10 minuti, scrive, mi alzo dal letto, 10 passi e sono alla finestra del bagno, a guardare se il livello del Seveso sale o scende, se la pioggia rallenta, insomma, se posso rilassarmi o no. Scrivo per dire che da quel giorno pochi passi sono stati fatti. Lavori, poco o nulla. Rimborsi, non se ne parla più. Proclami, quelli sì. Contestazioni, sempre. La mail di Daniele Tozza, che ritorna dunque sul problema delle alluvioni a Milano e delle esondazioni del Seveso, la trovate per intero sul blog, su Storiacce Blog. E anche voi, se avete qualcosa da denunciare, scrivetemi sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, oppure alla mia mail personale. Su Twitter invece mi trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!